Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 10 novembre, benvenuti di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro, Eduradio e TV, il vostro programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina Bombarda, la cura e conduzione di questo programma con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, ciao a tutti. La nostra trasmissione che va sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E oggi le nostre notizie ci portano a Roma con una riflessione che ogni tanto io ripesco tra la rassegna stampa, mi piace molto come scrivi, del nostro Lucio Boldrin, che è il cappellano del carcere di Rebibbia. E lui ha intitolato questo articolo per Avvenire, Roma, chi entra e chi esce dal carcere, tutti senza rete. Non c'è nulla di più vero di questo, perché non c'è giorno a Rebibbia, ma pensiamo anche a tutte le altre carceri, che non si vedano nuovi arrivati e anche persone che escono, chi è in permesso, chi ha gli arresti domiciliari, chi viene trasferito in altre carceri, chi è a fine della pena. Ci sono diverse situazioni, ma nei nuovi giunti, in chi arriva per la prima volta, si nota sempre questo smarrimento di chi entra per la prima volta, e questo smarrimento che è dovuto anche alle norme ormai contingenti per l'isolamento sanitario per 10-15 giorni, durante i quali non si può chiamare la famiglia, non si può telefonare all'avvocato, e poi ci sono chiaramente le difficoltà nel capire come funziona la vita all'interno, come soddisfare le prime necessità, cercare i prodotti per l'igiene personale, la biancheria, gli indumenti a cui molto spesso provvedono le Caritas e le associazioni di volontariato. E quelli che invece non entrano per la prima volta, come purtroppo accade, si sanno già come muoversi all'interno delle carceri e ritrovano subito vecchie conoscenze, purtroppo. Caterina, l'entrata in carcere è, diciamo, difficile, è un problema, ma anche l'uscita dimostra delle grandi difficoltà. Sì, il problema è anche l'uscita e soprattutto l'attenzione del cappellano Boldrin verso chi esce senza niente, con i sacchi neri della spazzatura contenenti pochissime cose. E che ci sia il sole, che ci sia la pioggia, che faccia caldo o freddo, sia giorno, un giorno festivo o no, quando hai superato la sbarra ti devi arrangiare. Quindi i più fortunati hanno dei parenti che magari li vengono a prendere e li portano in un domicilio, mentre molto peggio va agli stranieri, ai senza tetto, ai molti che durante la detenzione hanno perso i rapporti con la famiglia, hanno perso la casa, hanno perso il lavoro e che si trovano del tutto smarriti, non sanno nemmeno da dove iniziare il proprio cammino di libertà. Ecco, verso queste persone che cosa si può fare? Si cerca di dare una mano, si cerca magari a qualcuno di dare un indirizzo verso una struttura che raramente poi si trova, ad altri di dare un paio di biglietti per la metro, ad altri ancora si cerca magari di accompagnarli verso una stazione, un punto di partenza, verso un luogo di destinazione, e senza sapere poi quale sarà il destino di queste persone. Caterina, oltre allo smarrimento inevitabile di chi esce e non sa veramente dove dirigersi, c'è anche il problema grandissimo, di cui spesso abbiamo anche parlato noi, del lavoro, giusto? Sì, il problema del lavoro è quello più grande di tutti ed è anche quello più necessario, perché è proprio da lì che si deve partire, perché il lavoro permette di procurarsi onestamente il necessario per vivere, scrive il cappellano, cioè di cercare una casa, di essere autonomi, e allontana dalla tentazione di riavvicinarsi agli ambienti criminosi, alla rete, ecco, criminosa che ti ha portato lì dentro. È quindi indispensabile che i centri servizi delle carceri si attivino per favorire il più possibile la sensibilizzazione del mondo produttivo delle città, per facilitare l'incontro tra ex detenuti e mondo del lavoro. E questa cosa non è sempre facile, perché su di noi spesso agiscono i pregiudizi, chiaramente, gli stigma sociali. Questa cosa invece dovrebbe essere superata. Poi chiude l'articolo il cappellano con una cosa che a me ha fatto molta tenerezza, perché molto spesso le persone che sono in detenzione si aspettano in qualche modo un aiuto, un appoggio quando sarà finita la pena, e invece poi alla fine finiscono per sentirsi abbandonati, perché non è facile aiutare chi non ha proprio niente. È più facile aiutare chi ha già un aggancio fuori, chi ha una famiglia, chi ha una specie di rete. Chi non ha proprio nulla è veramente difficile da aiutare, quindi Boldrin ricorda di una persona, che un ragazzo che qualche tempo fa gli ha scritto, ha detto: sono tutte favolette quelle che si sentono dire dentro, assistenti, gli educatori che ti promettono aiuto. Io sono uscito, mi sono trovato senza aiuto e sono andato avanti con un piccolo fondo che mi sono fatto lavorando in carcere. L'unico posto che ho trovato all'uscita è stato un dormitorio alla Caritas. Quindi questa cosa ci deve far riflettere anche su quello che noi come società esterna, noi come volontari, noi come associazioni possiamo fare per dare veramente il nostro contributo per il reinserimento di queste persone nella società. Ma andiamo avanti sempre con la nostra playlist della settimana. Vi avevo promesso Bob Dylan tutta la settimana, quindi Ballad of a Thin Man, e noi ci rivediamo tra pochissimo con Antonella. You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale, siamo con te Antonella e proseguiamo da lunedì quelli che sono i movimenti necessari, per anche semplici, per non rimanere sempre sedentari, vero? Sì, proprio per la salute mentale. La settimana, cioè anzi lunedì in realtà, abbiamo parlato di quanto la sedentarietà abbia un costo enorme non soltanto sui nostri corpi, ma anche sulle nostre menti. La diminuzione del quoziente intellettivo e l'aumento dei disturbi mentali sono stati collegati proprio alla mancanza di movimento fisico. E avevamo consigliato due cose: alzatevi in piedi e rafforzatevi. Ma io continuerei con questa carrellata. E tutte cose molto semplici, Caterina, niente di così particolare. Per esempio, respirate. È il più piccolo dei movimenti e non si richiede chissà quale allenamento, ma controllare i muscoli del torace e del diaframma può cambiare in maniera decisiva il modo di pensare e di sentire. Incredibilmente, quando regolate il vostro respiro, vi state in realtà prendendo carico delle vostre onde cerebrali, collegandole al ritmo in cui l'aria entra ed esce dal naso. In realtà ci sono anche molte religioni o comunque molte pratiche, la stessa meditazione si basa su questo principio. Comunque, il legame si forma attraverso i neuroni sensoriali nella parte alta del naso, che si accendono quando l'aria scorre su di essi. Dal momento che quest'aria contiene informazioni sul mondo esterno, è logico che l'attività nelle regioni del cervello legate all'odore cominci a sincronizzarsi con il ritmo della respirazione, permettendo all'informazione di essere trattata a mano che arriva. E studi recenti dicono anche che la sincronizzazione non si ferma qui, coinvolge infatti altre aree come appunto la memoria, quelle incaricate di pianificare e prendere decisioni. Allora un consiglio pratico: il modo più facile di mettere in pratica la cosa è chiudere la bocca e respirare al ritmo di 6 respiri al minuto, inspirando per 5 secondi, e poi espirando per altri 5, sempre dal naso preferibilmente. È stato mostrato che respirare a questo ritmo è il modo più efficiente per riempire d'aria i polmoni e lasciare che l'ossigeno si diffonda nel sangue. Questo ritmo può aumentare la saturazione d'ossigeno dell'1-2% circa, che non è tantissimo francamente, ma meglio di nulla. Aiuta comunque le funzioni cerebrali. È stato anche dimostrato che inspirare ed espirare 6 volte al minuto stimola il nervo vago, che fa parte del sistema nervoso parasimpatico, il quale riporta il corpo a uno stato di calma dopo eventi stressanti. Quindi, ricapitolando, stare in piedi, rafforzarsi, respirare, sono tutte cose che possiamo fare molto molto facilmente. Continua, vai avanti. Poi Caterina, stare dritti. Ma tua mamma non ti diceva stai dritta, stai dritta? Sì, la mia me lo diceva continuamente quando ero piccola. Comunque, secondo gli studi di psicologia, una postura cadente è da lungo tempo associata a pensieri negativi e a sentimenti di sconfitta, mentre una postura eretta e distesa produce un atteggiamento mentale più positivo. Gli esperimenti dimostrano anche che tenere il corpo dritto durante un evento stressante aiuta le persone a essere meno colpite e a recuperare più velocemente. E poi ballate. Il potere della danza avvicina le persone prima di tutto, e questo vabbè è abbastanza scontato, però è così forte che alcuni governi, gruppi religiosi hanno cercato in passato di proibirla. Ovviamente è stata una strategia inutile perché come specie noi siamo anche nati non solo per camminare, per correre, ma anche per ballare. Secondo gli studi dell'Università di Oxford, la sensazione di benessere deriva dal fatto che i nostri cervelli funzionano come macchine predittive, che provano costantemente a indovinare cosa succederà. E un ritmo regolare crea soddisfazione perché facilita la previsione di cosa succederà dopo. Ogni volta che abbiamo ragione otteniamo una piccola dose di dopamina, un neurotrasmettitore che partecipa alla sensazione di piacere. Poi tenere il ritmo con il corpo fornisce una seconda dose di dopamina, cosa che ci fa sentire forti e con la situazione sotto controllo. Quindi tanti movimenti messi insieme, ma manca l'ultimo secondo me. Beh, l'ultimo è quello che noi definiamo stretching, allungamento, quindi allungatevi. Allungare i muscoli contratti fa sentire bene. Nuove ricerche suggeriscono che lo stretching porta cambiamenti nella fascia, cioè quei fogli di tessuto connettivo che avvolgono i nostri muscoli e permettono loro di scivolare l'uno sull'altro quando ci muoviamo. Altri studi hanno scoperto che le fasce sono strutturate come una spugna imbevuta di fluido che si riversa nel sistema linfatico. Questo potrebbe significare che l'allungamento o stretching aiuta a muovere i fluidi del corpo, permettendo al sistema immunitario di dare a questi liquidi una regolare pulizia e di rispondere all'infiammazione quando si manifesta. Si tratta anche di una cosa importante per la mente, perché alle infiammazioni incontrollate sono associate depressioni, dolore cronico e fatica. Allora Caterina, senti, a questo punto non possiamo che raccomandare una rubrica che è ormai settimanale ogni sabato, c'è yoga con yoga Ratna per essere precisi, con Franco e Laura. Seguiteli e provate a effettuare i loro movimenti. È veramente una pillola di benessere. E intanto, proprio per rimanere nello stare bene, ascoltiamo Feeling Good di Nina Simone. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Proseguiamo da ieri il colloquio con Giulio Russi, ormai lo conoscete, Centro Giustizia Riparativa Caritas di Bergamo. Bentornato Giulio e grazie di essere qui. Grazie a te Caterina, buongiorno e buona continuazione, diciamo così. Esatto. Giulio, io so che tu sei da anni anche mediatore in carcere e non solo. Come mai hai scelto questo ramo della mediazione? È stato un caso, perché nel 2003-2004, adesso non ricordo bene le date, era stato organizzato nella provincia di Bergamo un corso sulla gestione non violenta dei conflitti. E la cosa mi aveva stuzzicato e mi interessava. E abbiamo fatto un weekend al mese per 8 mesi proprio su questi temi, su una formazione su questi temi. Arrivati alla fine ci siamo accorti che ci mancava un aspetto molto teorico, questo corso ci mancava l'aspetto proprio pratico della mediazione, dell'incontro con le persone attraverso la mediazione. Tra i formatori di questo corso c'era una persona che collaborava con la Caritas diocesana di Bergamo e ci siamo detti: proviamo a contattare questa persona, vediamo se c'è la possibilità di uno sbocco per quello che abbiamo fatto in questi 8 mesi. E combinazione volle che la Caritas stesse organizzando il secondo ciclo di formazione per i mediatori per il Centro di Giustizia Riparativa. E da lì siamo entrati e abbiamo fatto, oltre alla formazione teorica sulla gestione non violenta dei conflitti, abbiamo avuto anche la formazione teorica ed esperienziale sulla mediazione umanistica di Jacqueline Morinot e quindi anche sulla giustizia riparativa. Il mediatore in genere, e qui ci aiuta anche l'etimologia, è chi si pone nel mezzo fra due persone o fra due parti cercando di trovare un accordo. Ma come funziona questo processo? È un processo difficile, immagino. Come si apprende anche questa pratica? Hai toccato, la domanda tocca un punto fondamentale di quello che è la mediazione, umanistica soprattutto, al quale noi facciamo riferimento. Il nostro scopo non è quello di trovare un accordo o di far trovare un accordo tra le persone. Di solito da noi o noi incontriamo persone che hanno rotto una relazione nel tempo. Il reato, ad esempio, rompe quello che è un patto sociale e una relazione tra persone. Se per di più chi commette il reato conosce la persona offesa, è chiaro che questo determina maggiormente quello che è la rottura della relazione della persona. Noi cerchiamo solo, attraverso il lavoro che facciamo, di permettere che queste persone possano ricominciare o cominciare a parlarsi e a riconoscersi, perché il processo di mediazione non è in mano ai mediatori, ma è in mano alle persone che accettano di venire in mediazione. Tieni presente che ci sono 3 aspetti fondamentali, sacrosanti della mediazione, che devono essere rispettati, che la ministra Cartabia ha richiamato nella delega approvata dal Senato recentemente, e cioè l'assoluta libertà. I mediatori lo dicono alle persone che incontrano: voi siete assolutamente liberi in qualsiasi momento di partecipare, continuare, interrompere, riprendere, eccetera, eccetera. L'assoluta riservatezza, quello che viene detto in mediazione non viene rivelato a nessuno. Noi abbiamo dei rapporti, adesso per la verità, un pochettino più, come dire, meno facili con i giudici di pace per tutto quello che è riguardato la riforma dei giudici di pace. E noi quando restituiamo il giudice di pace l'esito della mediazione, diciamo solo se la mediazione ha avuto un esito positivo o negativo e le eventuali disposizioni che le persone nella mediazione si sono scambiate. Giulio, dicevi che per l'appunto il vostro compito, il vostro scopo non è quello di trovare un accordo, ma quello di mettere, no, diciamo, in comunicazione due parti, che, esatto, dove a un certo punto si è rotto qualcosa. Ma quando la mediazione non ha un esito positivo, che cosa succede a quel punto? Allora, ce ne sono di mediazioni che non hanno esito positivo. Questo significa che le persone non hanno trovato un punto di incontro tra di loro. Tieni presente però che prima della mediazione vengono fatti cosiddetti, quelli che noi chiamiamo, i colloqui preliminari. Un altro piccolo inciso, non esiste solo un modello di mediazione naturalmente. Noi prendiamo come riferimento il modello della mediazione monistica di Jacqueline Morinot e poi che ha dei parametri fissi da rispettare, che poi però a seconda della mediazione adattiamo, no? Nella mediazione partecipano 5 mediatori e solo un mediatore fa tutto il percorso completo. Gli altri mediatori incontrano separatamente uno una parte, l'altro la seconda parte e gli altri due la mediazione vera e propria. Questo per permettere proprio l'assoluta, come dire, libertà anche da parte dei mediatori nella conoscenza del caso, per poter andare in mediazione il più liberi possibile da pregiudizi, da sovrastrutture che si possono avere acquisite durante i colloqui preliminari. Il mediatore responsabile, che è quello che segue tutta la mediazione, di solito sta sempre un po' più indietro, diciamo così, durante i colloqui e durante la mediazione stessa. Lascia che siano gli altri mediatori a lavorare in modo più approfondito. E quindi quando la mediazione vera e propria va male, noi comunque abbiamo fatto dei colloqui preliminari. E più di una persona, soprattutto sto parlando delle persone coinvolte in querele, contro querele, quindi mandateci da noi dei giudici di pace, più di una persona ci ha detto: finalmente siamo riusciti a parlare di noi, di quello che sta dietro il fatto per cui noi abbiamo denunciato o per cui siamo stati denunciati, cosa che durante il processo, chiamiamolo il processo, non viene fatto. Parla solo l'avvocato, noi possiamo solo dire due cose relative al fatto che abbiamo subito o che noi stessi abbiamo fatto e la cosa si chiude lì. Nell'incontro che abbiamo fatto con voi invece abbiamo potuto comunque dire tutto quello che sta dietro, quello che ci ha portato alla eventuale denuncia e così via. Quindi i colloqui preliminari aiutano comunque le persone a rendersi conto di quello che sta succedendo, anche se poi la mediazione vera e propria non dovesse andare in porto, non dovesse terminare positivamente. È comunque un passaggio di riconoscimento almeno di se stessi del conflitto che stanno vivendo. Mi hai detto prima che ci sono delle mediazioni che non vanno a buon fine, ma ci sono anche delle mediazioni naturalmente che vanno, certo, a buon fine, quindi positive. Ce ne sono alcune, ovviamente senza fare nomi e cognomi, però di cui ti ricordi bene l'esperienza, ti ha lasciato un segno anche a te, insomma, ti hanno fatto sperare anche che sia la cosa giusta, la cosa che state facendo. Allora, questa ci è stata mandata dal giudice di pace. Erano, naturalmente, mi hai detto bene tu, non entrerò nei particolari, erano comunque due persone separate che avevano problemi soprattutto per i figli, che avevano due figli. Ed erano 4 anni che queste persone non si parlavano. Abbiamo fatto la mediazione e c'erano tra di loro querele contro querele, quindi parecchia roba al fuoco, diciamo così. La mediazione è durata parecchio, più di 3 ore, 3 ore e mezza, forse 4, adesso non ricordo. È durata poco e non ha avuto un esito al momento positivo. Dopo 3 mesi però noi chiediamo comunque alle persone come si sentono e come sono passati quei 3 mesi. Io ho telefonato alla signora e ho chiesto a lei: signora, Guardi, la cosa, la mediazione non è andata bene, però sia io che mio marito abbiamo ritirato le querele e abbiamo raggiunto un accordo su come gestire i bambini. E questo l'ho chiesto dovuto anche alla mediazione. Lei mi ha risposto, non le so dire se questo sia dovuto anche a quello. Io so solo che dopo la mediazione siamo riusciti a trovare questo accordo. Grazie Giulio, è una storia bella questa, perché è molto, come dire, legata alla quotidianità. Queste cose succedono sempre e quindi fa capire che quello che fate è molto importante, al di là di tutto. Noi ci rivediamo domani e parleremo di giustizia riparativa, perché è un altro aspetto di cui vi occupate. Quindi un caro saluto, ancora un brano musicale e tra poco per i saluti. Ciao Giulio. Ciao Caterina, grazie. Eccoci, ben trovati, siamo ai saluti di fine puntata e vi ricordiamo la nostra rubrica a seguire con l'equipe sanitaria del carcere, che parlerà di un tema che deve essere molto molto importante per la salute delle donne, e quindi il tumore alla mammella e lo screening mammografico. Vi ricordiamo sempre di scriverci in redazione liberidentro@gmail.com e come al solito un carissimo saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese qui con me in redazione e dal nostro montaggista Enea Flacco. Grazie e a domani. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.